GR24, il sole 24 ore. Gheddafi, voci di fuga, tre jet privati hanno lasciato Tripoli, sul campo però si combatte, mentre gli Stati Uniti insistono, per la no-fly zone ci vuole l'accordo internazionale. Nuovi disordini in Egitto, 10 morti negli scontri tra copti e musulmani, e intanto in Italia la benzina tocca altri record. A Lampedusa altri sbarchi invece, per gestire l'emergenza arriveranno i militari. Quote rosa dal 2015, raggiunta l'intesa tra governo e Commissione Finanze del Senato. Una buona giornata dalla redazione e da Laura Bettini, quindi voci di fuga di Gheddafi. Facciamo il punto con Paola Nania che è in studio con noi. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Sì, è una situazione confusa in Libia, le notizie sono arrivate poco fa, almeno riportate dalle agenzie internazionali e nazionali. Al Jazeera parla di tre aerei del colonnello che sono partiti da Tripoli, uno secondo fonti aeroportuali sarebbe atterrato al Cairo e a bordo ci sarebbe un emissario del colonnello. Tra le voci appunto che circola è anche quella di una fuga di Gheddafi in Egitto, fuga non si sa quanto attendibile. Notizie confuse dunque che arrivano dopo il discorso di Gheddafi che questa mattina ha parlato alla TV di Stato. Gheddafi, lo state sentendo, ha accusato l'Occidente di complotto contro la Libia per controllare il petrolio, ha detto che i ribelli che lottano contro il governo hanno ricevuto il lavaggio del cervello da parte di Al-Qaeda. Ancora Gheddafi ha detto che se Al-Qaeda prendesse il sopravvento in Libia sarebbe il caos in tutta la regione fino a Israele. Tutto questo mentre le forze dell'opposizione appaiono effettivamente in difficoltà. Ci colleghiamo dunque in diretta con Bengasi dove si trova l'inviato del Sole 24 Ore, Roberto. Buongiorno Roberto. Sì, buongiorno a tutti. In questo momento a Bengasi, nel Palazzo del Tribunale, la roccaforte delle forze di opposizione. Dunque, Gheddafi ha appena parlato, i commenti qua dai leader della rivolta sono sempre gli stessi: non cederemo, non c'è stato nessun ultimatum a Gheddafi, non è vero che non inotteremo un'azione penale, siamo vicini alla vittoria. Le due parti, insomma, stanno usando toni molto propagandistici. In verità, da quello che si può qui percepire a Bengasi è che se l'ala militare manca di una leadership e di un'organizzazione efficiente per contrastare le forze Gheddafi, anche l'ala politica non è da meno, nel senso che sui 31 membri del comitato esecutivo, il cosiddetto governo de facto della Cirenaica, anche se loro smentiscono che sia tale, c'è molta confusione. Sicuramente il comitato non parla con una sola voce, nel mentre la situazione sta facendo più tesa, perché qui a Bengasi cominciano a mancare il genere, non i medicinali o il cibo, ma la gente a fine marzo vedrà il secondo mese di fila il proprio stipendio mancare, e soprattutto il carburante, le raffinerie sono ferme e quindi le autorità, il rappresentante del comitato energetico dice che ci sono scorte di benzina per 7 giorni e basta, e questo sarebbe un problema. E per ora da Bengasi è tutto. Grazie dunque a Roberto Bongiorni. Parliamo del fronte diplomatico. Hanno parlato gli Stati Uniti per bocca del segretario di Stato Hillary Clinton, che ha detto che la cosiddetta no-fly zone dovrà essere condivisa da tutta la comunità internazionale, non sarà dunque un'iniziativa unilaterale di Washington. Se le potenze occidentali imponessero la no-fly zone, ha risposto poco fa Gheddafi, il popolo libico prenderà le armi. Abbiamo chiesto a Lucio Caracciolo, direttore della rivista di geopolitica Limes, come interpretare la posizione degli Stati Uniti? Sentiamo cosa ci ha risposto. Ci vuole idealmente un mandato delle Nazioni Unite, che però molto probabilmente non ci sarà perché i russi e i cinesi non vogliono. Secondariamente potrebbero cercare di fare un'operazione supportata da organizzazioni regionali, cioè essenzialmente NATO, Unione Europea e Lega Araba, che non avrebbe lo stesso grado di legittimazione di un intervento a marca ONU, ma sarebbe un modo per dividere le responsabilità. Questo perché gli Stati Uniti hanno paura di impantanarsi nuovamente in una situazione tipo Afghanistan o Iraq? Perché se si dovessero impantanare, quantomeno avrebbero la possibilità di distribuire il problema anche con altri e quindi anche i costi. Ma francamente non credo che sia al momento un'ipotesi ravvicinata. Quindi secondo lei sono più, tra virgolette, parole di circostanza che non minacce serie, quelle di un intervento militare o di una no-fly zone? Per il momento, per quanto riguarda un intervento militare su terra, lo escluderei. Tratterebbe di ficcarsi in mezzo a una guerra civile con il rischio di essere sparati da entrambi. Nessuno in questo momento ha molta voglia di ficcare il dito in quel ginepraio. E ringraziamo Paola Nania per l'approfondimento sulla situazione in Libia, ma c'è molto fermento anche in Egitto ancora. Sarebbero 10 morti, oltre 100 feriti degli scontri verificatisi al Cairo ieri sera. Già questa mattina sono oltre 4.000 manifestanti radunati davanti alla sede della televisione di Stato nella capitale egiziana. Sentiamo cosa sta accadendo. Non è facile stabilire i contorni di ciò che accade al Cairo, perché le manifestazioni si susseguono e si intrecciano gli scontri tra parti politiche opposte e parti religiose in aperto conflitto. Ieri in piazza sono scese le donne per chiedere pari diritti e pari dignità. Slogan antifemministi lanciati da pochi sono bastati per accendere le violenze. Poche ore dopo, alla periferia della città, nel quartiere di Mokattam, le proteste, che andavano avanti ormai da venerdì, dopo l'incendio di una chiesa copta, si sono trasformate in scontri a fuoco. Testimoni hanno riferito che alcuni uomini hanno sparato su manifestanti copti. Il numero di morti e feriti è salito velocemente, ma a distanza di ore ancora non è possibile stabilirlo con precisione, perché nella capitale egiziana la violenza è dilagata ovunque. Da mesi i cristiani copti protestano per i soprusi subiti in quanto minoranza religiosa. Contro di loro i musulmani salafiti, che accusano i copti di tenere in ostaggio una giovane cristiana convertitasi all'Islam. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sulla situazione in Libia, ma anche su quest'ultima evoluzione in negativo della situazione in Egitto, è in collegamento con noi Valentina Colombo, docente presso l'Università Europea di Roma. Buongiorno. Buongiorno a voi. La situazione in Egitto quindi sembra aver fatto passi indietro rispetto all'unità che c'era stata nei giorni delle rivolte, delle proteste in piazza. Adesso siamo tornati agli scontri interreligiosi come a dicembre, a gennaio. Purtroppo sì, ma a dicembre, gennaio, ma quanto era accaduto anche un anno fa, diciamo, questa purtroppo non è una novità, e il commento che a me viene a caldo è proprio: chi semina raccoglie. Purtroppo sia le autorità religiose sia le autorità civili negli ultimi decenni, ma non solo negli ultimi anni, non hanno fatto nulla per arginare questi problemi, queste diatribe, questo conflitto che è sociale, ma è fondamentalmente dovuto anche, e lo dimostrano gli elementi salafiti in gioco in queste ore, è dovuto ad una predicazione dell'odio nei confronti dell'altro. Lei, Colombo, è di recente entrata a far parte del Comitato per l'Islam Italiano del Ministero per l'Interno. La situazione egiziana e quella libica sono quindi totalmente differenti nella sua visione, nella sua esperienza? Sì. Sono totalmente differenti, ma come è differente il caso tunisino? Sono tutte situazioni che sono scoppiate a seguito, diciamo, dell'infrangere la barriera della paura, il muro della paura in Tunisia, ma che hanno poi delle connotazioni completamente diverse. In Libia abbiamo conflitti che, diciamo, non solo nei confronti di un dittatore, ma ci sono gli scontri tribali, c'è poi il fattore economico che svolge un ruolo fondamentale a livello internazionale, e diversi sono gli scontri e quello che è accaduto in Egitto. Non dimentichiamoci che Egitto e Tunisia sono entrati ormai nella fase delicatissima e purtroppo, diciamo, dimenticata poi dai mezzi di comunicazione, della fase di transizione. Non dimentichiamo poi tutto quello che sta succedendo anche in altri paesi del Medio Oriente, quali appunto il Bahrain, l'Oman, la Giordania, lo Yemen, che stiamo perdendo Yemen, un po' di vista, ma anche nello stesso Kuwait, dove io sono stata di recente, dove non si ha, diciamo, un'opposizione nei confronti del potere centrale, si ha però la minoranza dei bidun, dei cittadini apolidi, un gruppo di tribù, minoranze apolidi in Kuwait, che rivendica i propri diritti. Per cui diciamo che in questo momento, laddove c'è un punto debole, nel caso del Kuwait è la minoranza apolide, in altri casi appunto sono le minoranze tukur, in altri casi sono appunto semplicemente la mancanza di libertà di espressione, di libertà in generale, a scatenare il tutto. Ormai si è arrivati al punto in cui non si sta più zitti. Per esempio, in Egitto, e pochi lo sanno, l'altro ieri è iniziato uno sciopero generale in seno alla più grande rivista letteraria egiziana, Akhbar al-Adab, perché il direttore editoriale ha obbligato praticamente i giornalisti della redazione a scrivere dei pezzi, a intervistare personaggi conniventi col regime libico. Per cui anche in questo non si sta più zitti, anche gli intellettuali, i piccoli giornalisti dicono no ai dittatori, no a chi opprime le libertà. E quindi è ancora più difficile intervenire dall'esterno in situazioni così diverse. Grazie a Valentina Colombo. Parliamo adesso di riflessi di questa situazione nordafricana. Oggi non ci sono particolari apprezzamenti del petrolio, ma lievitano però i carburanti in Italia. Si allineano infatti al rialzo Kuwait e Total Erg. Contro il caro benzina in Italia dovrebbero aumentare i distributori self-service, ha detto stamani il ministro dello sviluppo economico Romani, mentre ha annunciato un'accelerazione sul nucleare. È stata costituita infatti l'agenzia e approvato il regolamento per la scelta dei siti, ha detto il ministro. Abbiamo in collegamento Deborah Rosciani, ti ritroviamo volentieri per sapere come vanno le borse. Sì, buongiorno Laura. Allora, la situazione stamattina è abbastanza positiva. Per la verità la partenza era stata un po' più stentata per i listini del vecchio continente, adesso più sereni, anche perché forse proprio il fronte petrolifero oggi è leggermente più sereno. Stamattina sui mercati asiatici il WTI, il greggio di riferimento americano, quotava $104.63 al barile. Il Brent a Londra, che ha toccato punte di $120 nelle scorse giornate, oggi è a 112,70. Borse positive, dicevamo, trainate proprio da Milano, che segna un rialzo dello 0,85%, mentre l'euro torna di nuovo a scavalcare la soglia di 1,39 sul dollaro, a 1,3937. La moneta unica europea era scesa al di sotto di questa soglia stamattina dopo che Moody's ha deciso di declassare il debito delle banche greche. Lunedì lo aveva già fatto sul debito sovrano, appunto, della Grecia. Questa è la situazione. Laura, per ora è tutto. Grazie a Deborah Rosciani. E visto che siamo tutte donne, parliamo di quote rosa adesso. Alessandra Schepisi, buongiorno. Raggiunta l'intesa tra governo e Commissione Finanze del Senato. Sì, buongiorno, è così, il governo ci ripensa e fa marcia indietro e si rimette al lavoro della Commissione Finanze del Senato, dove il testo è attualmente all'esame. All'indomani dell'8 marzo si sblocca dunque l'impasse e viene approvato l'emendamento della relatrice Germontani, frutto del lavoro di tutta la Commissione, sul quale si era invece messo di traverso inizialmente l'esecutivo. Un emendamento che prevede due mandati per i rinnovi dei CDA delle società quotate: al primo nel 2012 dovrà esserci il 20% di donne, al secondo nel 2015 30, con entrata in vigore dopo 12 mesi dall'approvazione della legge. Il nodo era proprio questo, la gradualità. Il governo avrebbe infatti preferito un'entrata a regime non prima del 2021. Per chi non si adegua scatteranno diffida di 4 mesi, sanzioni pecuniarie, nuova diffida di 3 mesi e infine decadenza del CDA. Le quote rosa tuttavia non varranno in eterno, ma solo per 3 mandati consecutivi. Quanto ai prossimi passaggi, si attende la decisione della Presidenza del Senato e dei Capigruppo su un possibile via libera in sede deliberante, che consentirà eventualmente di saltare il passaggio nell'aula del Senato. Il testo poi passerà alla Camera per la terza lettura. Da Roma è tutto, a voi la linea. Le 13:16, la seconda parte di GR24. Nella prima abbiamo parlato di Gheddafi, ci sono voci di fuga, 3 jet privati hanno lasciato Tripoli, un emissario di Gheddafi sarebbe arrivato al Cairo. Sul campo però si combatte ancora con cannonate e bombardamenti. Gli Stati Uniti insistono per la no-fly zone, ci vuole l'accordo internazionale. Intanto sono scoppiati nuovi disordini in Egitto, 10 morti negli scontri tra musulmani e copti. In Italia la benzina continua a salire, si sono allineati al rialzo anche Kuwait e Total Erg. E poi le quote rosa: dal 2015 è raggiunta l'intesa tra governo e Commissione Finanze del Senato. Ed ora andiamo a Lampedusa. Le ripercussioni sulla immigrazione della crisi che investe il Nord Africa sono note ormai a tutti. A Lampedusa nella notte è arrivato un barcone con 55 tunisini a bordo, ma ci si aspettano altri sbarchi in giornata, viste che le condizioni meteo-marine sono buone. Giuseppe Caruso, prefetto di Palermo, commissario straordinario per le emergenze immigrati, ha annunciato che sull'isola arriveranno 100 militari dell'esercito. Mariano Maugeri, buongiorno. Buongiorno a voi. In diretta con noi da Lampedusa, quindi anche i militari arriveranno a Lampedusa. Sì, e questo rischia di far degenerare la situazione, che come sapete è già abbastanza tesa. Stamattina si sono riuniti un gruppo di pescatori albergatori dell'isola, nel pomeriggio diramerano un documento molto duro nei confronti dell'immigrazione e della gestione appunto di questi flussi migratori, perché ovviamente la militarizzazione significa lanciare un segnale anche ai turisti che l'isola è irrimediabilmente compromessa, e quindi temono che alle disdette che sono piovute fino ad oggi se ne aggiungeranno altre. E di quei 55 arrivati stanotte, due erano in ipotermia e sono stati trasportati a Palermo, mentre è risultata totalmente falsa la notizia di un'aggressione a una dottoressa del poliambulatorio. In realtà non è successo niente, c'era un tunisino con manie suicide che ha tentato di prendere delle forbici, ma i carabinieri l'hanno prontamente bloccato. Altri militari, a quanto vi ha detto il prefetto Caruso, saranno poi inviati anche a Mineo, questo villaggio della solidarietà in provincia di Catania, è così, no? Sì, e infatti lì c'è un altro grosso problema. Lombardo ha dichiarato che Mineo potrebbe essere, rischia di essere una bomba umana. Bisogna ricordare che Lombardo è di Gran Michele, un paese che dista poche decine di chilometri da Mineo, quindi quello è il suo, diciamo, collegio elettorale, quella è la sua gente, e da quanto abbiamo capito si opporrà con tutti i mezzi all'apertura del centro, quindi anche lì ci saranno dei conflitti istituzionali nelle prossime ore. Istituzionali, politici, poi sociali, no, a catena, no. Sarà tutto molto difficile. Grazie a Mariano Maugeri in diretta con noi da Lampedusa. Noi restiamo in Sicilia per tutt'altra questione, però il decreto sulle energie rinnovabili è da cambiare o cade il governo, minaccia il fondatore di Forza del Sud, Gianfranco Micichè. Così come è stato scritto e ideato, il testo sull'energia verde è sbagliato e si deve cambiare. È quanto sostiene il fondatore del movimento Forza del Sud, il sottosegretario Gianfranco Micichè, che dice: o si cambia o cade il governo. Il sottosegretario, in un'intervista alle Iene Show che andrà in onda stasera, non nasconde l'intenzione del proprio partito, che può contare su 8 deputati, di far valere la forza se il governo non accetterà una mediazione sulle energie rinnovabili. In particolare Micichè chiede ai tre ministri interessati, quello dell'agricoltura Carlo Galan, dello sviluppo Paolo Romani e dell'ambiente Stefania Prestigiacomo, di rivedersi non solo con alcuni che suggeriscono loro quello da fare, ma con gli altri che forse possono suggerire qualcosa di diverso ma migliore. Il Sud, per caratteristiche geografiche, è terra ricca di impianti rinnovabili, eolico e fotovoltaico in primis, e quindi se questi incentivi improvvisamente vengono meno, chiudono tutti. E allora io non credo che sia interesse né di Berlusconi né di questo governo far chiudere quel poco di produttivo che esiste qui al sud, ha detto ancora Micichè. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. Al di là delle rinnovabili, però, il governo per ora è impegnato sul fronte della riforma della giustizia. Ne parliamo con Vincenzo Miglietta. Buongiorno. Sì, buongiorno. È così, il governo stringe i tempi sulla riforma della giustizia. Oggi il ministro Angelino Alfano dovrebbe illustrare il testo al capo dello Stato e in serata poi vertice del Popolo della Libertà per gli ultimi dettagli del provvedimento, che arriverà domani sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Tra le novità della riforma vi è la separazione delle carriere tra giudici e PM, la divisione del CSM in due, il mantenimento dell'obbligo dell'azione penale, ma secondo le modalità stabilite dalla legge. L'autonomia della magistratura è garantita, dice dalla maggioranza Cicchitto. Sul testo, aggiunge dalla Lega Riguzzuni, ci aspettiamo un confronto con l'opposizione. Sentiamo le sue parole. La riforma che il governo propone è una riforma che arriva in Parlamento, ci sarà spazio per discutere. Mi auguro che l'atteggiamento dell'opposizione non sia come al solito preconcetto, ma invece si entri nel merito, perché ci interessa una giustizia efficiente che dia ragione a chi ha subito un torto, alle parti deboli che sono i cittadini e le imprese. Noi crediamo che sia utile per le riforme strutturali, come in questo caso, che ci sia davvero il contributo di tutti, e auspichiamo che non ci sia un atteggiamento preconcetto della sinistra che non vuole discutere di cambiamento perché in realtà ha interesse a conservare tutto. Aspettiamo di vedere il testo e poi vedremo come comportarci, dicono dall'opposizione UDC e Finiani. Siamo preoccupati, commenta invece dal Partito Democratico la senatrice Finocchiaro. È ovvio che bisogna aspettare il testo per capirlo. Bisogna capire se questo testo è coerente con un principio, che è quello dell'indipendenza della magistratura e della sua autonomia al potere politico, che è la prima garanzia perché tutti siano uguali davanti alla legge. Il potentissimo che può avere agganci nel governo è il cittadino comune che non ha nessuna protezione. Questo è un valore al quale noi riteniamo di non poter in nessun modo rinunciare, in nome della Repubblica, non in nome ovviamente del nostro partito. Sentimenti simili da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati. La giunta dell'ANM valuterà eventuali iniziative di protesta. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. Sempre in tema politico, maggioranza battuta alla Camera sulla proposta del deputato del Partito Democratico Ettore Rosato di rispedire in Commissione Difesa la proposta di legge che era cara alla Lega per favorire nelle regioni dell'arco alpino il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. Lo stop è passato per soli 9 voti, è stato il primo caso di Vietnam parlamentare, ha commentato il vice capogruppo di FLI alla Camera, Carmelo Briguglio. Adesso andiamo alla cronaca con gli ultimi sviluppi sul caso di Elisa Claps. La prova chiave che gli inquirenti cercavano, l'anello mancante. Ora ci sarebbe anche questo a puntare il dito contro Danilo Restivo per l'omicidio di Elisa Claps, ritrovata giusto un anno fa, il 17 marzo, nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza. Tracce del DNA di quello che resta l'unico indagato, detenuto in attesa di giudizio in Gran Bretagna per l'omicidio di una sarta inglese, sarebbero state trovate sulla maglietta che la ragazza indossava. Una prova che arriva dopo mesi di attesa e dopo una super perizia. Al momento dell'arresto in Gran Bretagna, infatti, Restivo non aveva voluto sottoporsi al prelievo richiesto con rogatoria dai PM salernitani. La polizia inglese aveva sequestrato invece suoi oggetti, dai quali gli inquirenti italiani avevano potuto estrarre un profilo genetico, ma che pareva incompatibile. Le autorità inglesi, tuttavia, hanno acquisito al momento dell'arresto il DNA di Restivo e lo hanno custodito in un database. Ora è stato trasmesso all'autorità giudiziaria di Salerno e incrociato con quelli isolati a Potenza. Nel corso di questi nuovi esami sarebbe stata trovata la prova che ancora mancava. Anna Migliorati, GR24, Il Sole 24 Ore. È in allarme il cinema italiano. Cinecittà infatti rischia di chiudere. Aperta la procedura di crisi ministeriale causa esuberi. Nessun piano di rilancio è stato presentato, a rischio anche l'archivio storico. Paradossale che questo avvenga nei giorni dei festeggiamenti dei 150 anni dall'Unità d'Italia, dice Mimmo Calopresti, intervistato da Marta Cagnola. No, non c'è solamente, come dire, un patrimonio che nel nostro paese, eccetera, un patrimonio veramente che riguarda tutti, perché se poi vai a vedere quelle immagini, veramente c'è un racconto dell'umanità là dentro, da quando è cominciata. Qui, quando ti ritrovi là dentro in quelle immagini, eccetera, sai che stai raccontando l'essere umano, no? Stai raccontando la sua storia, stai raccontando la sua vita, stai raccontando i passaggi politici, stai raccontando tutto della vita delle persone. Qualche volta si pensa che quel patrimonio lì, perché è gestito dallo Stato, è gestito da questo, sia, no? No, è di tutti, veramente di tutti, e soprattutto in questo momento stiamo parlando dell'Unità d'Italia, della sua storia, eccetera. Mi sembra che dove possiamo andarci a studiare, a capire, a fare, eccetera, perdiamo quel patrimonio, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Prima di chiudere anche il calcio, la Roma ha detto addio alla Champions League. Questa sera invece ci sarà in campo il Milan. Sentiamo Dario Ricci, buongiorno. Sì, buongiorno. Dopo il KO per 3-0 nel gelo di Donetsk, che ha sancito l'eliminazione della Roma dalla Champions in favore degli ucraini dello Shakhtar, tocca stasera al Milan cercare la sua personalissima rimonta. Rossoneri che al White Hart Lane di Londra affrontano il Tottenham, che all'andata a San Siro ha vinto per 1-0. Allegri recupera Boateng, in attacco si affida alla coppia Pato Ibrahimovic. Per quanto riguarda il Tottenham c'è un piccolo grande dubbio, cioè la presenza o meno del gallese Gareth Bale, il talentuoso terzino sinistro che, lo ricordiamo, nel girone eliminatorio già ha rifilato 3 gol all'Inter a San Siro nella sconfitta dei londinesi per 4-3. Ma sentiamo proprio Allegri in merito al Tottenham. Sappiamo che Bale è un giocatore importante, è un giocatore che ha grandi qualità fisiche e tecniche, è cresciuto molto nell'ultimo anno, però credo che il Tottenham non sia solo Bale, ma sia una squadra formata da molti giocatori importanti con caratteristiche tecniche molto importanti, soprattutto a metà campo e avanti. Fischio d'inizio alle 20:45, stasera in campo anche Schalke 04 Valencia, all'andata finì 1-1. E per ora è tutto. Grazie a Dario Ricci, è tutto anche per questo GR24 che è stato curato e condotto da Laura Bettini. In regia c'è Fabio Cantadori. Prossimo appuntamento con tutti gli aggiornamenti alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.